in primo piano. Voglio partire dall'economia oggi perché l'economia, con due importanti notizie, è sulle prime pagine dei giornali. Il Sole 24 Ore le mette entrambe. Nasce la Banca del Sud, questa è l'apertura. Tremonti avrà poteri speciali di rilancio per le infrastrutture. E poi, sempre in prima pagina di spalla, come si suol dire, accordo sul contratto dei metalmeccanici, aumento di 112 euro. L'apertura di Repubblica, scudo fiscale, allarme di Draghi, può incentivare l'evasione, il governo vara la Banca del Sud. Il Corriere invece, il Corriere della Sera, fa un'apertura legata alla mafia. Mafia, i misteri del papello, è l'altra grande notizia che troverete sui giornali. La Stampa, patto Berlusconi-Bossi, il Veneto va al carroccio, quindi con la politica. Arriva la Banca del Sud, invece l'apertura del Messaggero. Come detto, voglio concentrarmi su queste notizie economiche importanti. La Banca del Sud, che è stata varata ieri in Consiglio dei Ministri, trovate all'interno del Sole 24 Ore, a pagina 7, tutte le mosse, le sei mosse dalla nascita alla fase operativa. C'è anche un'intervista a Ivan Lobello, che è il presidente di Confindustria Sicilia, che dice: bene, ma finanziarsi sarà difficile. In questa intervista di Giorgio Santilli dice Lobello: un nuovo intermediario finanziario focalizzato sul mezzogiorno porta più concorrenza, quindi servizi migliori a prezzi più bassi, un sistema creditizio già di buon livello. I possibili problemi però, eccoli, ne vedo due seri, dice Lobello. Il primo è che la banca dovrebbe finanziarsi sul mercato con obbligazioni ordinarie. Mi pare uno strumento un po' fragile, considerando che in questo caso non c'è neanche la garanzia dello Stato. E poi aggiungo, non conosciamo il livello di capitalizzazione e di patrimonializzazione di questa banca. La seconda criticità invece è la rete degli sportelli. Una manovra rivolta prevalentemente alle banche del credito cooperativo nel sud, dice Lobello. Sono 103 banche che io apprezzo perché hanno un alto indice di soddisfazione del cliente, però rappresentano in termini di sportelli il 9% del sistema del credito del sud. Queste le due criticità, secondo Lobello, che comunque dice l'impatto reale prevedibile sull'economia del sud a breve non credo fortissimo. Per dare un contributo forte presuppone un rafforzamento di queste banche di credito cooperativo, per l'appunto. Tra l'altro ci sono vari commenti sui giornali. Repubblica ospita un commento di Massimo Riva dal titolo Il fantasma del carrozzone. D'altronde non sarà un carrozzone quello che ha detto lo stesso ministro Tremonti presentandolo. E il Corriere della Sera, pagina 2, con Sergio Rizzo. Dal Banco Napoli al sogno della Mediobanca bis, personaggio interprete della finanza nelle due Sicilie. Sergio Rizzo, insomma, racconta un po' anche la storia dei personaggi che hanno fatto il passato della Banca del Mezzogiorno. Paolo Cirino Pomicino, per esempio, che dice: adesso scoprono che il Mezzogiorno d'Italia è l'unica regione d'Europa, dal Baltico a Malta, che non ha una sua banca. Sono cose sconvolgenti. Perché nessuno ha parlato quando negli anni 90 le banche del Sud venivano assorbite dagli istituti del Nord? Al contrario di altri, io non c'ero, dice Pomicino. E gli altri, secondo lui, sono proprio, per esempio, Tremonti, che, aggiunge Pomicino, adesso potrebbe dire: ho sbagliato, che male c'è, tutti sbagliano. E poi, insomma, c'è la ricostruzione anche di personaggi, dei legami con la politica, insomma, di quell'esperienza. Ci sono anche delle retroscene riguardanti a questa vicenda. Per esempio, pagina 3 di Repubblica, la rabbia del superministro. Il superministro è sempre Tremonti, molto spesso sui giornali in questi giorni. Con Draghi non farò mai pace. Sono dei virgolettati, ma come al solito sono da prendere con le molle, perché sono virgolettati di retroscena. Io con Draghi non firmerò mai la tregua, e poi quello lì non conta nulla. Le decisioni si prendono a Francoforte, non a Via Nazionale. Questo sarebbe lo sfogo a cui si sarebbe lasciato andare Giulio Tremonti nelle conversazioni private. Scrive Repubblica: non sopporta il governatore di Banca Italia, lo dice. E poi Tremonti, ieri, dopo il Consiglio dei Ministri, è stato convocato, sempre secondo questa ricostruzione, da Berlusconi insieme a Gianni Letta per chiedere un chiarimento dopo una settimana di incomprensioni e reciproci sospetti. Così si legge su Repubblica. Tralasciando la vicenda della Banca del Sud, che comunque alle 9 vi annuncio, poi Oscar Giannino approfondirà in 9 in punto, quindi dalle 9 alle 10 si parlerà proprio di Banca del Sud. Veniamo invece all'accordo dei metalmeccanici. L'accordo firmato ieri, 112 euro di aumento, un accordo che è stato firmato non però dalla FIOM CGIL. C'è un editoriale in prima pagina del Sole 24 Ore di Alberto Orioli, una firma di buonsenso per una difficile stagione. Non è, come dice la FIOM, con accenti di cui renderà conto alla storia sindacale, purtroppo non per la prima volta, un accordo raggiunto da sindacalisti mediocri. La firma del contratto dei metalmeccanici, 100 giorni di trattativa, pochissime ore di sciopero e chiusura con 2 mesi di anticipo sulla scadenza, è una buona notizia. Per il futuro di un'intera categoria impegnata a reggere insieme, imprenditori e lavoratori, l'urto di una crisi mai vista. La firma di ieri, scrive Orioli, dimostra che sta funzionando il modello di nuove relazioni industriali messo a punto a fine anno. La CGIL non ha firmato le regole generali, di conseguenza non gioca le singole partite. E poi Orioli parla di battaglia di retroguardia dei meccanici CGIL, che svaluta il contributo che un accordo sindacale valido per quasi 1 milione di addetti porta al recupero della domanda interna. Ma questo accordo non firmato dalla CGIL è davvero fonte di diversi temi, di diversi approfondimenti, di interviste, commenti. Il Sole 24 Ore intervista il vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei, che dice: tradizionalmente la vertenza dei metalmeccanici ha sempre avuto una valenza simbolica per tutte le altre categorie, e credo che quindi in questo caso potrà essere di riferimento e di aiuto per tutte le categorie. In questa intervista Giorgio Pogliotti, dal titolo "Accordo apripista per una nuova stagione". Per dire quanto il tema sia caldo è l'apertura dei due giornali Il Manifesto e L'Unità. Il Manifesto mette in prima pagina Angeletti e Bonanni, vale a dire i leader di Will e CISL, le cui sigle dei metalmeccanici hanno firmato l'accordo, dal titolo "Contractors". Violando ogni regola di democrazia, FIM e WILM hanno firmato con la Federmeccanica il nuovo contratto delle tute blu. Scrive Il Manifesto con un articolo in fondo dal titolo "Ottobre nero" del direttore Gabriele Polo. E così anche L'Unità, il titolo è sotto la foto di un metalmeccanico: "Lo schiaffo, contratto e strappo. Metalmeccanici, FIM e WILM firmano l'accordo". Rinaldini della FIOM dice: "Andremo in tribunale", e all'interno, in un'intervista, parla di colpo di Stato e assolutamente di un qualcosa, di un accordo da non fare. Mentre trovate anche su Avvenire, a pagina 2, il commento di Francesco Riccardi, che dice: "Inutile stupirsi, la trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici ha predata ieri all'unico epilogo possibile, una firma separata. Una base comune dalla quale ripartire per superare la crisi. Quello siglato ieri è un buon contratto, stretto senza un'ora di sciopero da parte dei contraenti in poco più di 3 mesi prima della scadenza del vecchio accordo". Insomma, questo tema davvero trovate tanti commenti e posizioni differenti sui giornali. Come l'altro tema sul quale, per esempio, il Corriere, come detto, ha deciso di aprire, è quello della mafia e i misteri del papello. Il papello cos'è? Sarebbe quell'accordo, quella prova di una trattativa tra Stato e mafia, di cui parlò per la prima volta Giovanni Brusca, uno che nella vita ha ucciso diverse persone e ora è pentito. Ha ucciso anche Falcone, tra gli altri, e che parlò di questo papello in 12 punti, le richieste della mafia per fermare le stragi durante l'epoca delle stragi 92-93. La prova sarebbe di un accordo con lo Stato. Che è successo? Che ieri una copia, per la verità una fotocopia via fax, e dunque su questo si stanno concentrando, sulla sua attendibilità, i magistrati, è stata fatta arrivare appunto alla Procura di Palermo dall'avvocato di Massimo Ciancimino, il figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo. Dal maxi processo alla benzina, ecco il papello, a pagina 5 del Corriere. Pubblicato il documento, una copia delle richieste del boss consegnata da Ciancimino Junior. C'è anche un manoscritto dell'ex sindaco. E i punti sono revisione, i punti di quello che avrebbe chiesto la mafia per fermare le stragi: revisione della sentenza del maxi processo, annullamento del 41 bis, il carcere duro, la riforma della legge sui pentiti, la chiusura delle supercarceri, ma anche, per esempio, levare le tasse ai carburanti nella Sicilia come ad Aosta. Tra l'altro, in un commento di Giovanni Bianconi, L'analisi dice: ecco dunque finalmente il presunto papello, seppure in fotocopie trasmesso via fax. Ma ora al secondo piano di Palazzo di Giustizia si respira aria di prudenza, perché quel pezzo di carta è arrivato dopo mesi di tira e molla con chi l'ha fatto recapitare, vale a dire Massimo Ciancimino, il figlio dell'ex sindaco mafioso Vito. Ciancimino Junior dice che sopra c'è un post-it anche, vergato dal padre, in cui è scritto che fu consegnato spontaneamente all'allora colonnello dei carabinieri Mario Mori, ma un foglietto adesivo si può applicare e riapplicare ovunque. Anche sulla stampa trovate le richieste di Riina per fermare le stragi, svelato il mistero del papello, così il boss cercò di piegare lo Stato, due pagine firmate da Francesco Lalicata e l'apertura anche del Fatto Quotidiano, i 12 punti del papello per la resa dello Stato, una nota consegnato al colonnello Mori, colonnello Mori che ha già smentito, e bisogna dire che su la posizione per esempio di due quotidiani come Il Giornale e Libero è ben diversa. Il papello no, carta straccia, così scrive Gianluigi Nuzzi in prima pagina su Libero. E anche Il Giornale all'interno parla di questo documento, che però non sarebbe granché veritiero. Il papello di Riina, falso clamoroso. Questo scrive Gianmarco Chiocci. L'Espresso pubblica la lista delle 12 richieste che la mafia avrebbe fatto allo Stato, ma l'ex colonnello del ROS, cioè Mori, soltanto una muntatura, denuncio tutti. Ma il dossier è già arrivato in procura. Sapete che c'è una vicenda legata alla scorta a Roberto Saviano. C'è stata un'intervista molto dura, un'intervista incredibile per certi versi, fatta a Vittorio Zincone, al capo della mobile di Napoli, della squadra mobile di Napoli, che sostanzialmente ha detto la scorta Saviano non la meritava, per quanto risultava a noi della polizia. Ha detto anche di più, ha detto Gomorra è un romanzo che è stato sopravvalutato, ha detto anche io faccio anticamorra da anni ma la scorta non ce l'ho, e anzi quando vado a testimoniare dalle aule gli imputati mi salutano. Insomma, materiale per grandi polemiche. Ieri D'Avanzo, Giuseppe D'Avanzo su Repubblica, chiedeva in maniera esplicita anche la rimozione del capo della squadra mobile di Napoli, dicendo se questa è la sua posizione o non è compatibile con la sua posizione a Napoli. Io, la mia scorta e il senso di solitudine di Roberto Saviano, è una lunga lettera che trovate sulla prima pagina di Repubblica. In primo piano. Lo vedi? Stanno iniziando ad abbandonarci, lo sapevo. Così il mio capo scorta mi ha salutato ieri mattina. Inizia così una lunga lettera di Roberto Saviano, scrittore di Gomorra, pubblicata oggi in prima pagina di Repubblica, dal titolo Io, la mia scorta e il senso di solitudine. Il dolore per la protezione che cercano di farmi pesare, di farci pesare, era inevitabile, scrive Saviano. La sensazione di solitudine dei 7 uomini che da 3 anni mi proteggono mi ha commosso. La sensazione è che nella lotta ai clan si sia prodotta una frattura forte. E poi più avanti Saviano fa uno sfogo molto duro dopo aver ringraziato l'antimafia, il prefetto Manganelli, cioè il capo della polizia, i carabinieri, insomma tutti coloro che gli hanno mostrato solidarietà in questi giorni, forse ne dimentico qualcuno, ma insomma li elenca tutti. Dice e scrive Saviano: chi fa questo discorso ha un unico scopo, cercare di isolare, di interrompere il rapporto che ha permesso in questi anni di portare alla ribalta nazionale e internazionale molte inchieste e realtà costrette solo alla cronaca locale. Sento di essere antipatico a una parte di Napoli, a una parte del paese, per ciò che dico, per come lo dico, per lo spazio mediatico che cerco di ottenere. Sono fiero di essere antipatico a questa parte di Campania, a questa parte di italiani, a molta parte dei loro politici di riferimento. Sono fiero di stare antipatico a chi in questi giorni ha chiamato le radio, ha scritto sui social forum finalmente qualcuno che sputa su questo buffone. Sono fiero di stare antipatico a queste persone, sono fiero di sentire in loro bruciare lo stomaco quando mi vedono e ascoltano, quando si sentono messi in ombra. Non cercherò mai i loro favori né la loro approvazione. Sono sempre stato antipatico a quella parte di Napoli che vota politici corrotti, fingendo di credere che siano innocui simpaticoni che parlano in dialetto. Sono sempre stato fiero di risultare antipatico a chi dice si uccidono tra loro, perché contiamo troppe vittime innocenti per poter continuare a ripetere questa vuota cantilena. Sono sempre stato fiero di risultare antipatico a chi mal sopporta che vada in televisione, sulle copertine dei giornali, perché ho l'ambizione di credere che le mie parole possano cambiare le cose se arrivano a molti. Sono sempre stato fiero, invece, di essere stato vicino a un'altra parte di Napoli e del Sud, quella che in questi anni ha approfittato della notorietà di qualcuno emerso dalle sue fila per dar voce al proprio malessere, al proprio impegno, alle proprie speranze. Sono sempre stato fiero che vicino a me ci siano tutti quei campani che non ne possono più di morire di cancro e che vedere a governare siano arrivati politici che negli anni hanno sempre spartito i propri affari con le cosche. E poi più avanti Saviano dice: sento profondamente incattivito il territorio, incarognito, gli uni contro gli altri pronti a ringhiarsi alle spalle. Infine la chiusura, insomma, sull'intervista che ha scatenato il tutto, l'intervista al capo della Mobile, le dichiarazioni che ha fatto. Continuare a vivere in una situazione così è difficile, scrive lo scrittore, ma diviene impossibile se iniziano a frapporsi persone che tentano di indebolire ciò che sino a ieri era un'alleanza importante, giusta e necessaria. So che è molto difficile vivere la realtà campana, ma c'è qualcuno che ci riesce con tranquillità. Io non ho mai avuto detenuti che mi salutassero dalle celle, né me ne sarei mai vantato. Anzi, pur facendo lo scrittore, ho ricevuto solo insulti. Qualcuno dice che a Napoli, che è riuscito a fare il poliziotto riuscendo a passeggiare liberamente con moglie e figli senza conseguenze. Buon per lui che ci sia riuscito. Io non sono riuscito a fare lo scrittore riuscendo a passeggiare liberamente con la mia famiglia. Un giorno ci riuscirò, lo giuro. E, insomma, molto dura la reazione di Saviano. Tra l'altro lo trovate in prima pagina su Il Giornale e Libero. Per esempio Libero mette in prima pagina Saviano con un titolo: Saviano scrive ma è la polizia che arresta. Mattias Mainiero è duro, dice: Pisani, vale a dire il capo della Mobile, ha commesso un errore. Ha detto ciò che a Napoli quasi tutti pensano e non dicono. Roberto Saviano, simbolo blindato della lotta alla camorra, non aveva bisogno della scorta. I lettori di Libero sanno bene che Saviano a noi non l'ha mai contata giusta. Fior di giornalisti a Napoli hanno scritto di camorra, fior di cronisti hanno svelato misteri, fior di scrittori hanno raccontato la vita dei clan. Scrive Saviano e Saviano diventa l'eroe e il martire. Ma così c'è anche su Il Giornale. Il Giornale attacca in realtà Repubblica e Giuseppe D'Avanzo, che ieri appunto ha detto quel capo della Mobile ora non deve più stare lì sostanzialmente. Ieri Repubblica, scrive Luigi Mascheroni, riestrae dalla fondina, adattandolo al nuovo bersaglio, il collaudatissimo e speriamo questa volta fallibile metodo Sofri. Prendi un commissario di polizia, accusalo di una presunta responsabilità civile o politica, scatenagli contro una campagna mediatica, mettilo nel mirino e aspetta che qualcuno, e non è una metafora, prema il grilletto. Oggi Repubblica, scrive Mascheroni, mette vergognosamente nel mirino il poliziotto Vittorio Pisani, giovane e brillante capo della squadra mobile di Napoli, già capo degli omicidi, promosso sul campo per meriti straordinari. Perché, scrive Il Giornale, l'unica colpa è stato essere contrario alla scorta per Saviano. Vabbè, abbandoniamo questo tema, ci sarebbero tante segnalazioni. Ho tralasciato un po' la politica, fortunatamente, per un giorno, ma trovate anche lì, insomma, l'accordo Berlusconi-Bossi con la Lega, che dovrebbe correre per il Veneto. Patto Berlusconi-Bossi, il Veneto va al carroccio. Questo è il titolo, per esempio, della Stampa. C'è un'intervista a Chiamparino del PD, sindaco di Torino, che vi segnalo sul Corriere della Sera. Dice: a disagio in questo PD, più che a disagio mi sento estraneo a questo partito, non mi sento a casa mia. E che Marco Imarisio dice: ma perché non se ne va? Domanda legittima, ma non sono uno che va via, la mia è una storia di appartenenza, mi limito a stare in disparte. Comunque, insomma, un Chiamparino molto duro nei confronti del PD. Ci sono poi tutta una serie di articoli che troverete sugli sfoghi clamorosi degli allenatori. Ieri abbiamo letto in diretta quello di Maradona. Incredibile, dopo la vittoria mondiale ne ha dette di tutte, tralascio le più volgari, ricordo solo: ringrazio tutti gli argentini, la mia famiglia, le mie figlie, tutti tranne i giornalisti, siete carogne, figli di puttana, ma tranquilli, io a memoria mi sono segnato i vostri nomi. E sapete chi mi aiuta? Le mie figlie. Tengono una lista di tutti quelli che parlano male di me, dei cornuti e dei più cornuti. Mi avete trattato come spazzatura e adesso attaccatevi al mio coso e fatemi godere. Questo Maradona, poi c'è anche lo sfogo di Lippi, insomma, vari articoli e commenti su anche un po' la volgarità che ormai la fa da padrona nel calcio e non solo. Ci fermiamo qui, parliamo in qualche modo anche noi di sport alle 8.30, ve lo voglio ricordare in chiusura, parliamo di Olimpiadi 2020, ci sono 4 città italiane candidate, forse non è ancora finita, Roma, Venezia, Bari, Palermo. Vi chiediamo, siamo credibili secondo voi? Votate su radio24.it, sulla home page trovate bianco o nero un po' in basso a destra, entrate lì e cliccate, oppure il sole24ore.com, questo per votare. Sono le 8 e 15 minuti, eccoci qua con l'economia. Soldi e dintorni. Bene, confesso, ci siamo, Deborah, ci siamo distratti. C'era Peter che ci faceva dei segnali di fumo dall'altra parte. Per una volta tanto non è solo ed esclusivamente colpa mia. Come dire, mettete le cuffie perché in radio sennò non si sente. E magari anche seduti davanti al microfono sarebbe necessario. Stavamo parlando di Marcello Lippi noi. Esatto. Degli sfoghi. E stavo chiedendo ad Alessandro, non ho capito bene qual è il tema di cui ti occupi alle 8.30. No, parliamo di Olimpiadi, Olimpiadi. Di sport, Olimpiadi. Sì, no, sai perché? Perché se avessi affrontato la questione del disappunto che ha avuto Marcello Lippi l'altra sera, ti avrei dato un assist calcistico, ovviamente, da qui, perché noi stamattina parliamo di arbitri, caro mio. Ah, beh, per forza. Visto quanto l'ho presa alla lunga. Però ma ce l'aveva più con i giornalisti che con gli arbitri, comunque. Tanto per cambiare, figuriamoci. Allora, perché noi parliamo stamattina di arbitri? Parliamo dell'arbitro bancario finanziario. È un nuovo organismo al servizio di tutti i consumatori. È stato lanciato dalla Banca d'Italia dopo molti mesi di lavoro organizzativo. Al tavolo di questa nuova figura di conciliazione siedono anche le associazioni dei consumatori e come rappresentante di queste a questo tavolo c'è una persona che non ha neanche bisogno di presentazioni, Anna Bartolini, buongiorno. Buongiorno a tutti, non sono la sola però, certo, sono tre i gruppi, ce n'è uno a Napoli, uno a Milano e uno a Roma dove ci sono rappresentanti dei consumatori. Quindi tu, Anna, praticamente rappresenti le associazioni in seno al collegio di questo istituto che è quello di Roma? No, io sono su quello di Milano. Ah, ecco, pensavo che fosse su quello centrale. In ogni caso, detto questo, noi stamattina interessa capire come funziona questa nuova figura, quali liti e controversie è possibile dirimere presso questa sede e quali sono anche le perplessità intorno a questa figura, perché è il caso di dire che naturalmente anche queste ci sono, non fosse altro per il fatto che in questi anni, Anna, abbiamo visto un proliferare piuttosto intenso di luoghi di conciliazione per le controversie bancarie e non solo. Vogliamo partire con l'ABC o partiamo subito con le perplessità? Vogliamo partire con l'ABC rapidamente, è un po' questo. La banca aveva l'ombudsman bancario che aveva sede a Roma, ma probabilmente sia per eccesso di lavoro, per coordinazione eccetera, noi avevamo ricevuto tantissime lamentele proprio dagli utenti, quindi credo che la Banca d'Italia in questo momento abbia fatto un'opera egregia di cercare di così rinserrare un po' le file e essere più chiara e più sintetica anche per i consumatori, quindi saranno tutte le controversie che riguardano le banche, non soltanto le small claims come le chiamano gli inglesi, ma comunque si guarda molto a questo modello e sono tutte le banche che il piccolo cittadino, il piccolo commerciante, tutte le controversie che può avere. Diciamo che noi abbiamo posto una serie di domande per chiarezza, perché mentre probabilmente dal parte delle banche il ruolo era molto chiaro, un po' meno per noi. Per esempio, noi volevamo sapere come avverrà la comunicazione, perché se è una cosa che toccherà tutto il paese, vorremmo sapere come i cittadini saranno informati. Ci hanno promesso di fare una campagna di informazione, ma qualcosa del genere. Beh, intanto poi possiamo già fare qualcosa noi, per esempio, Anna, do subito questa indicazione, diciamo che entro breve tempo già sui siti di tutte le banche dovrebbe esserci la documentazione su come funziona questo ADF, chiamiamolo così, sì. E quindi sarà possibile scaricare anche la guida pratica che io per peraltro sotto gli occhi, e se fosse necessario per i nostri ascoltatori già informarsi, si può andare anche sul sito del Sole 24 Ore, perché lo abbiamo pubblicato anche noi. Esattamente, naturalmente qui rientriamo proprio nel classico caso della DSR, come tu raccontavi, che sono le Alternative Dispute Resolution, che noi abbiamo portato da altri paesi, soprattutto ai paesi del Nord Europa, che sono queste piccole controversie che però devono avere uno stesso modello, essere rapide, incisive e portare subito delle soluzioni. Questo è un po' l'obiettivo, perché evidentemente le controversie con le banche, o perlomeno hanno le tempi lunghissimi. Diciamo che molto spesso siamo in una, come dire, trattativa all'interno della quale ci sentiamo sempre in una posizione molto debole, e qualora le risposte non arrivino nei tempi che sono mediamente anche prestabiliti, certo, se ci rivolgiamo per esempio all'ufficio reclami banalmente della banca, ecco lì non abbiamo invece mai i mezzi per poter sollecitare una risposta, un intervento. Allora, proprio su questo, sì, esatto, Anna. Proprio questo, perché anche poi vengono norme dell'Unione Europea in cui si parla appunto della risoluzione delle piccole controversie, ma noi volevamo anche sapere come per esempio sono stati informati gli intermediari, cioè quanta informazione hanno adesso nelle banche, perché sai, si può lanciare una cosa in questo senso, però poi se tu il terreno nel quale vai così a pescare non è stato fertilizzato, è difficile poi riuscire a capirci qualcosa, anche perché, come sappiamo, sulle controversie bancarie ci sono sempre alcuni piccoli aspetti, un po' dei cavilli eccetera, che l'uomo comune, perché questo è rivolto proprio al piccolo, certo, consumatore, investitore che ha problemi. E l'ultima, da quando questi tempi di soluzione, mi pare che la cosa comincerà a navigare velocemente. E questi sono un pochino i principi, ovviamente indipendenza, e questa è la garanzia che c'è, l'indipendenza e assolutamente un rispetto dei diritti degli utenti. Io lancerei però anche un appello, cioè di non spaventarsi, perché la gente poi, soprattutto quando ha soltanto delle piccole cose, entra in banca, sente un linguaggio che non gli appartiene, infatti, e comincia ad avere le palpitazioni. Direi loro, fatevi spiegare, andate dalle associazioni dei consumatori, perché questo è un po' un meccanismo che dovrebbe girare anche con il supporto e l'aiuto delle associazioni dei consumatori. Però credo che sia importante che la Banca d'Italia abbia finalmente toccato con mano che l'ombudsman bancario era insufficiente, che mancavano veramente degli strumenti e delle forme di alternative alla giustizia, e che in questo momento si parta. Certo. Allora, volevo fare un breve riepilogo su che cosa può decidere l'arbitro bancario finanziario. Può intervenire in tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, come per esempio i conti correnti, i mutui e i prestiti personali. C'è anche un limite di denaro. Se il cliente chiede, per esempio, o vuole aprire un contenzioso che riguarda una somma di denaro, il limite massimo di intervento è di 100.000 euro. Non ha invece limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà, come per esempio, faccio un esempio che è riportato proprio dalla guida pratica dell'ABF, quando ci si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza, o per esempio la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo. Allora, il primo passo da fare però, quando abbiamo un contenzioso di questo tipo, lo vogliamo aprire con la banca, non è andare subito all'ADF. All'ADF bisogna anche dimostrare, se non ricordo male Anna, di aver già reclamato presso la banca e di non aver avuto risposta. Sì, assolutamente, il primo passo è quello del reclamo nei confronti della propria banca, perché poi, diciamo la verità, lo scoglio primo è quello, per cui poi la banca si tenta spesso di minimizzare. Invece il consumatore non deve mollare la presa, nel senso che noi abbiamo tutti un po' di timore riverenziale quando entriamo nelle banche, perché sappiamo che non conosciamo tutte le regole ad uno. Noi abbiamo adesso questa in mano, questo ricorso a questo ambito, a questo arbitro bancario finanziario, e se abbiamo dei dubbi sull'oggetto del nostro contendere, si può dare anche un colpo di telefono alle associazioni dei consumatori, perché ovviamente indirettamente di supporto le associazioni ci sono, e da tempo tra l'altro che le associazioni dei consumatori fanno assistenza bancaria. Certo. Diciamo che mentre prima c'era una struttura, l'ombudsman, che non era facile da raggiungere a Roma eccetera, adesso c'è ci sono tre punti, sono il nord, il sud e il sud, i tre collegi, sì, Milano, Roma e Torino. Esatto. Quindi le informazioni, diciamo, le informazioni ci sono e si possono attingere, le banche stesse dovranno attivarsi moltissimo e mi auguro anche che nel momento in cui qualcuno va ad avere informazioni su come reclamare ci sia qualcuno che ci ripensi, perché in effetti il problema è quello che Banca d'Italia vuole agire anche proprio sulla questione sull'immagine delle banche. Assolutamente. Perché credo che più brutta di come ce l'avevano adesso, giù di così non si può andare. Giustamente, tra l'altro poi questo è un sistema, non dico mutuato dall'Europa, ma nei paesi europei, questo sistema dell'ombudsman, degli ombudsman bancari, fiscali, eccetera, fanno parte della tradizione dei paesi nord europei e quindi sono tradizioni che funzionano. E anzi le dirò che un mese fa, quando io sono stata a Bruxelles per l'ultima riunione del Consiglio europeo dei consumatori, si era proprio pensato anche da parte della Commissione che tutte queste forme di accesso alla giustizia, diciamo, per le small claims, potessero avere tutte un apparato identico, in modo che sia che si lamenti per un prodotto difettoso, sia perché mi hanno messo un prezzo che non era quello, abbiano più o meno delle indicazioni di base, proprio per non avere procedure diversissime per ogni settore. Infatti. Quindi questo e dovrebbe essere abbastanza simile per tutti i paesi dell'Europa. Allora, un ultimo... Che questa Europa non comincia a andare. Ecco, infatti, solamente gli ultimi 30 secondi di tempo, Anna, per dare un'ultima indicazione. Allora, intanto devo dire che per chi volesse attivare un ricorso attraverso questa figura deve versare 20 euro che saranno restituiti qualora il ricorso venisse accolto dalla ABF. Comunque questo tutto molto ben spiegato nella guida pratica. Se la ABF dà torto alla banca per la controversia che si è aperta, che cosa succede? La banca interviene immediatamente e se dà torto... Perché ricordiamo che non ha un potere sanzionatorio la ABF. No, non ha potere sanzionatorio, però ha il potere di dire, questi tre collegi, chiamiamoli così, di dire che questo signore ha tutti i diritti che ha chiesto e che quindi gli fanno, per esempio, annullate le cambiali, gli vanno restituiti i soldi indietro, sono sbagliati a fargli il cambio dollaro. Adesso le prime sì, infatti, possono essere tantissimi gli esempi, no, di intervento. Esattamente. E quindi praticamente sarà un problema di reputazione. Qualora poi la banca non dovesse fare il suo dovere nei confronti del cliente, la ABF lo sa e in qualche maniera, come dire, pubblicherà poi in continuazione il nome delle banche che non si comportano correttamente e quindi riceveranno un ulteriore danno di immagine e reputazione. Di dare un messaggio, non mollate quando avete questi problemi. Adesso abbiamo ottenuto, grazie ovviamente al buon lavoro della Banca d'Italia, questi strumenti che servono per capire un po' di più sui nostri diritti, usiamoli. Io do il sito dove è possibile trovare tutte le informazioni sul funzionamento della ABF, www.arbitrobancariofinanziario.it. Prima di partire a tamburo battente con la presentazione di un contenzioso, intanto verificate che lo abbiate già fatto con la banca, che non vi abbia dato risposta, e verificate prima se il problema può essere risolto da questa nuova figura. Grazie molte ad Anna Bartolini, ci risentiamo presto, vedremo come va, tra l'altro, magari ci risentiamo nei prossimi mesi. Buon lavoro. Stuzzicare. Infatti, okay, buon lavoro Anna, presto. Alessandro. Eccoci qua. Salva Danaio, torniamo un po' sui mercati. Oggi verificheremo quali sono le opportunità di investimento o i rischi di investimento con questo dollaro così debole. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: una fotocopia del papello, l'elenco delle richieste che la mafia fece allo Stato per interrompere la stagione delle stragi, è stato consegnato alla Procura di Palermo dall'avvocato di Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo. I magistrati ora indagano sulla veridicità del documento in cui la mafia avrebbe chiesto la revisione del maxi processo, la fine del carcere duro per i mafiosi, ma anche la defiscalizzazione della benzina per la Sicilia. Ieri in Consiglio dei Ministri via libera alla Banca del Mezzogiorno. Tremonti dice non sarà un carrozzone, lo Stato è socio promotore. E tra l'altro ne parlerà Oscar Giannino alle 9. Io sono troppo buono e giusto, vorrei che me lo riconoscessero. Le calunnie sono un boomerang per chi le fa. Lo ha detto il Premier Berlusconi ieri in visita in Bulgaria e poi ha aggiunto il mio gradimento è al 68%. Infine giallo in Iran, dopo che un giornalista americano ha diffuso la notizia che la guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, sarebbe morto o in coma in seguito a un collasso. La notizia è rimbalzata su tutti i siti del mondo, ma per ora Teheran tace. E allora le 8:34 minuti, siamo pronti per il sondaggio di oggi, parliamo di Olimpiadi. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Allora, vi chiediamo su radio24.it, dovete votare, o il sole24.com, quattro città che si presentano con la candidatura. Siamo credibili secondo voi? Roma, Venezia, Palermo e forse, presumibilmente, ma credo di sì, presto Bari. Saluto Elio San Nicandro, buongiorno. Buongiorno. L'assessore all'urbanistica ma anche allo sport del comune di Bari. È così, Bari, presto vi candiderete? Sì, ovviamente qui stiamo parlando di precandidature, perché sappiamo tutti che la candidatura italiana sarà unica. E certo, la deciderà. Ovviamente, diciamo, io insomma non ironizzerei come fanno altri, perché diciamo, parlare di queste cose, proporre, aprire un dibattito è comunque molto utile. No, perché non stiamo mica ironizzando. No, non parlo di lei, parlo di alcuni giornali. Attenzione, perché guardi, la sta ascoltando un giornalista che forse ieri qualcosa ha scritto, non so se è Gianantonio Stella, che saluto. Gianantonio Stella, buongiorno, inviato del Corriere della Sera. Elio San Nicandro, le chiedo anche questo, perché scusate, a Palermo, in Sicilia, il governatore lombardo e l'assessore Nino Strano hanno detto candidiamo Palermo. Il sindaco di Palermo, cioè della città candidata, ha detto io non ne so nulla. Voi, lei che è assessore, ha avvisato il sindaco Emiliano? Io sono sono anche presidente del CONI regionale, quindi ho fatto 5 Olimpiadi e qualcosa di sport me ne intendo. Noi abbiamo avanzato, ripeto, una proposta per dare alcuni argomenti di discussione, ed è partita dalla città, quindi dal comune di Bari, ottenendo subito l'adesione della regione, quindi siamo partiti correttamente. I nostri punti di forza sono due essenzialmente nell'ambito del dibattito. Uno è quello: perché non al sud? Visto che tra l'altro diciamo questi grandi eventi sono delle occasioni anche per investimenti infrastrutturali, la possibilità diciamo di recuperare un credito che noi abbiamo nei confronti del governo centrale da tempo. Il secondo argomento di dibattito è quello della sostenibilità. Io, avendo un minimo di esperienza in proposito, ho qualche dubbio, per esempio, che aree eccessivamente congestionate come possono essere Roma o Venezia possono così facilmente ospitare le Olimpiadi. L'appeal o la notorietà internazionale sono sicuramente un bel argomento, sono molto affascinanti, però non sono assolutamente sufficienti per una candidatura olimpica, dove ci sono dei temi, quali appunto la sostenibilità, la mobilità, l'accessibilità. Ci sono una serie di problematiche che vanno affrontate in maniera tecnica. Insomma, no, ma la vedo molto combattivo. Giustamente, insomma, se portate avanti questa candidatura. Gian Antonio Stella, inviato del Corriere della Sera, ieri iniziava così il suo articolo. Non so se l'ironia si riferiva magari anche a Gian Antonio Stella. Mancano ancora Matera, Campobasso, Savona, Carugate, Cerveteri e Cirié e qualche altra, ma la lista delle città italiane che vogliono le Olimpiadi si allunga in modo significativo. Insomma, Stella, stiamo perdendo un po' credibilità secondo lei su questo? No, voglio dire, vogliamo andare a vedere chi ha fatto i giochi olimpici nella storia? Allora, li leggo: Atene, Parigi, Saint-Louis, Londra, Stoccolma, Berlino, Amsterdam, Los Angeles, Berlino, Città del Messico, Monaco di Baviera, Montreal, Mosca, Los Angeles, Barcellona, Atlanta, Sydney. Quando tu hai bisogno di, diciamo, 100.000 posti letto, chiaro? Sì. Poi devi riempirli anche dopo. Le Olimpiadi durano un mese, prendiamo soltanto questo problemino. Cosa fai? 100.000 posti letto e poi? Cosa ne fai dopo? Come li riempi? L'assessore di Bari pensa che di poter riempire 100.000 posti letto in modo decente da poter coprire la spesa di costruirli? Questo è il tema del dopo, assessore. Siamo in fase molto molto preventiva, ma avete pensato, avete già messo un piano di tutto quello che potrebbe succedere poi, finite le Olimpiadi e poi le strutture, certo, che si è visto. Ma è proprio visto. Questo è il punto. Comunque il giornalista ha dimenticato Seul, che era una città totalmente sconosciuta prima delle Olimpiadi, ha dimenticato Torino, che è una città sconosciuta a livello internazionale, e ha dimenticato che le prossime Olimpiadi invernali dopo Vancouver, sa dove sono? A Sochi. Faccio un sondaggio di quante persone sanno dove si trova questo... Però voglio dire, vabbè, le Olimpiadi invernali è un'altra cosa, qua parliamo delle Olimpiadi estive, però Seul, insomma... Anche Cortina ha avuto gli invernali. Sì. Nell'88 era una città sconosciuta, la gente non sapeva manco dove fosse Seul. La Corea. Seul. Beh, insomma, assessore, questo, ecco, poi in geografia magari c'è un po' ignoranza, però dire che la capitale della Corea del Sud non si sa dove fosse, questo forse no. Ma al di là di questo, voi avete messo a punto questa... No, perché ieri Gianantonio Stella ha segnalato, Gianantonio, vorrei che ricordasse anche tutto quello che in passato, insomma, purtroppo tradizionalmente non dobbiamo vantarcene, ma in Italia queste manifestazioni hanno portato anche tanti scandali, no? Certo, tranne per i giochi del Mediterraneo di Bari, dove è stata l'unica candidatura e giochi italiani dove non c'è stato spreco, dove c'è stato il riuso, c'è stato interventi tranne che per i giochi per il Mediterraneo. Stella c'è l'assessore quanto com'è finita con lo stadio di Bari per i mondiali. I mondiali di calcio non sono giochi del Mediterraneo, i mondiali di calcio sono l'eredità dei mondiali di calcio, che è una manifestazione capito, però, portata avanti. Assessore, voglio dire, adesso non focalizziamoci sui particolari, quelli furono i mondiali di calcio che anche a Palermo, ieri ha ricordato Stella, hanno lasciato degli strascichi di scandali enormi, voglio dire, è una manifestazione grande, paragoniamola alle Olimpiadi, insomma, perché non dovrebbe ricapitare con le Olimpiadi, se mai arrivassero? Soltanto l'assessore di una cosa, perdonate, sì. Seul, la sconosciuta Seul, ha 10 milioni e mezzo di abitanti. No, ma infatti che sia sconosciuta questa assessore non gliel'avevo passata neanch'io. Ma in ogni caso, insomma, assessore, come si può... Seul ha 4 milioni e mezzo di abitanti, cioè voglio dire, che significa? Seul era una città arretrata e del tutto sconosciuta nel mondo. Grazie alle Olimpiadi è diventata una città nota e ha lanciato... l'industrializzazione della Corea è nata allora. Allora, è nata allora. Seul è nata nel 1988. Stella, la vicenda. Questo è un tema che ricorre spesso, cioè le Olimpiadi come occasione. Oh, facciamo le Olimpiadi così ci rilanciamo. Ma è davvero l'approccio giusto? Allora, l'idea della data catenaccio è un'idea vecchia come il cucco, ma l'impostazione, diciamo così, ideologica finale è di ha un nome e un cognome, è Gianni De Michelis. Il teorizzatore della data catenaccio, cioè la data che ti impone di arrivare in tempo, perfino in un paese come l'Italia, dove nulla si riesce a fare in tempo, è di Gianni De Michelis. È chiaro? Su questa idea della data catenaccio sono stati fatti negli ultimi decenni in Italia delle cose pazzesche, ma se le vogliamo ricordare alle Colombiadi di Genova, e quindi non in meridione, alle Colombiadi di Genova per arrivare in tempo fecero un cavalcavia che non passava sotto i camion. Dovettero abbatterlo e rifarlo. Per i mondiali di calcio fecero lo stadio nuovo olimpico di Roma e non entravano dal portone i camion dei vigili del fuoco. Posso andare avanti per ore a raccontare di questi episodi qua. Ieri... Si scavalcano gli appalti ed è per questo che piacciono. Si scavalcano gli appalti. E poi si scavalcano le regole per gli appalti. E va sempre a finire che si dà gli appalti ad amici o a aziende strane o comunque con criteri discutibili, va a finire con i ricorsi, le inchieste penali, qualche volta, perché anche la giustizia italiana per fortuna qualche volta ci arriva con le condanne, e poi se no in genere va a finire con le prescrizioni. Ricordava Stella ieri anche si va a studiare all'estero come si fanno queste manifestazioni, quella volta in cui andarono in Giappone per vedere i mondiali universitari di Fukuoka, in 231 dalla Sicilia, deputati, funzionari, amici, artisti, 30 sbandieratori di Siena, 30 trampolieri emiliani, 30 gondolieri veneziani, 30 Pulcinella napoletani e via tutti all'Hyatt a pagare quanto? Mezzo milione di lire a testa al giorno più o meno, Stella, no? Questa era la cifra. Insomma, anche così per studiare quello che si fa all'estero. Sì, no. È andata via un attimo la voce, Stella, se può. No, dicevo che poi non ci andarono perché intervenne la magistratura prima, però avevano già preparato il piattino per un viaggetto di questo genere. Insomma, però, però che deve fare Stella, voglio chiedere, Bari, se ha legittimamente l'ambizione di dire Bari, perché qua c'è l'assessore di Bari, ma se fosse Palermo, se Cammarata ci avesse risposto alla richiesta che gli abbiamo fatto ieri alle 2 per intervenire, parleremmo di Palermo. Bari, che deve fare? Se legittimamente si sente titolare della possibilità di candidarsi alle Olimpiadi, non può farlo Stella? Senta, le Olimpiadi di Pechino sono costate 40 milioni di miliardi di dollari. E Pechino è una grande città che aveva già una metropolitana, una grande metropolitana, aveva già una serie di strutture formidabili perché è la nazione emergente da almeno 20 anni, aveva già tutta una serie di altre cose, dei posti letto, eccetera, molto ampia, un'offerta molto ampia, e ha speso 40 miliardi di euro. L'assessore comunale di Bari, con tutto rispetto, ritiene che oggi l'Italia sia in grado di investire ancora di più, perché a Pechino c'era già tutte queste cose, a Bari no. Ritiene che l'Italia sia in grado di investire oggi 40-50 miliardi di euro su Bari e dintorni? Il tema è come trovare. Sia un po' così, capisco che Fitto possa dare una mano, magari anche Vendola ed altri, però insomma mi sembra dura. La cifra importante. Allora ci risponderà tra poco l'assessore San Nicandro. Intanto voglio salutare anche Mario Pescante, l'onorevole Mario Pescante, buongiorno. Buongiorno a voi. Vicepresidente del CIO, il Comitato Internazionale Olimpico. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, su Radio24.it vi chiediamo se siamo credibili, secondo voi, con già 4 candidature alle Olimpiadi 2020. Bisogna dire che per il momento il 90% e oltre dice di no. Vorrei chiederlo però a Mario Pescante, un uomo che dello sport, non solo della politica, dello sport, ha fatto la sua vita e fa la sua vita, Comitato Internazionale Olimpico, vicepresidente. Onorevole Pescante, mi sembra di aver capito che lei ha detto, vabbè, sì, ci si possono candidare, però la partenza non è stata delle migliori, in un'intervista al Messaggero leggevo, anzi non è stata una partenza brutta. Che intendeva dire? Ma io mi riferivo a un momento in cui, per la verità, c'erano solo 2 candidature preannunciate, non annunciate, e non lo trovo affatto, come dire, dannoso, perché se pensiamo a Chicago si è battuta contro Baltimora e New York. Però poi strada facendo è venuto un fiorire di candidature, mi perdoneranno il termine, le città interessate sono rispettabilissime, quelle che si sono aggiunte alla lista, ma ho avuto un po' la sensazione di una specie di mucchio selvaggio, e devo dire, io ho condiviso l'articolo di Letta, appunto, che gli ho anche telefonato ieri. Di Stella, perché... forse, Letta, prego? La di Stella forse, ha detto di Letta. Scusi, è un lapsus freudiano, sì. I contatti sono quotidiani anche su questo tema. Ho letto e devo dire che, insomma, è un articolo di critica, ma anche di preoccupazione. Perché? Perché queste candidature, io ho la sensazione ci sia più un intento del purché se ne parli che un reale interesse. La candidatura olimpica è una cosa seria, ci si batte contro città importanti, c'è stato uno scontro tra i leader degli Stati Uniti, Obama, Zapatero, il re di Lula, Spagna, Lula. L'ultima... il primo ministro giapponese sembrava contrario. Sì, poi immaginatevi che Lula va lì in Brasile a candidare Rio de Janeiro, poi Olimpiade vinta, e il sindaco di Rio de Janeiro non lo sa, come è successo a Palermo. Cammarata ha detto io non lo so. Stella, anche questa, non potevano avvisarmi, un po' piccato, ha detto il sindaco della città che dovrebbe ospitare le Olimpiadi. Stella. Sì, beh, quella è stata molto divertente, insomma, questo dà l'idea di come anche questa cosa qua sia nata in modo così strampalato, dice intanto buttiamo lì l'idea, poi magari ci facciamo sopra un po' di commissioni, distribuiamo un po' di poltrone, stanziamo un po' di soldi per studiare il problema e poi non ce la danno, chi se ne frega, intanto per un po' di tempo diamo da mangiare un po' di gente. Purtroppo la storia dice che queste cose capitano. Ma il suo è un articolo, come ha detto Pescante, un articolo, quello di ieri, anti-italiano, mi perdono, oppure di no, io amo l'Italia e quindi non voglio che queste cose si capitino più, insomma. Senta, ma a me che mi metta le corna una che non conosco, non importa nulla. ci si arrabbia con le persone che si amano, ci si arrabbia con le cose che si amano. Io sono furibondo con l'Italia perché amo l'Italia, e se no che mi importa, scusi, eh? Se facessero una stupidaggine simile in Slovenia o in Olanda, che mi frega, scusi. Uno se la piglia con l'Italia perché ama l'Italia, perché adora l'Italia, perché ama Palermo e ama Bari, e trova insopportabile vedere, umiliare, o per usare un verbo sdoganato da Berlusconi in questi giorni, sputtanare alcune città importanti con delle iniziative strambe, estemporanee, eccentriche, per dir poco, come questa. Che Bari, sì, capisco che c'è la battuta su Parigi e Mary, però che Bari ritenga di essere più o meno, insomma, chi è Seul, mi fa un po' sorridere, insomma. Seul è la capitale di un grande paese industriale che negli ultimi decenni ha... Però nata nell'88, dice l'assessore San Nicandro, fino allora era sconosciuta. Assessore, tra poco sono da lei, però visto che ci hanno chiamato in tanti, poi richiamiamo noi ovviamente valutando gli interventi, però visto che ci chiama da Bari, Maria, voglio sapere il suo parere. Maria da Bari, buongiorno. Buongiorno. Lei le vuole le Olimpiadi? Comunque, volevo dire, sono esterrefatta. Da che? Dal fatto di proporre Bari come... avrei voluto che Bari fosse una città adatta a una cosa del genere, ma se non funzionano i mezzi pubblici. Al 2020? Sono stati fatti per il mondiale di calcio, dove avevamo già uno stadio, ne è stato fatto un altro, chi lo ha abbandonato, cioè si fanno solamente le partite di calcio, intorno è anche diventata una zona poco sicura. Ma quando mai? Quindi lei, Maria, no, Maria, lei quindi non crede all'idea facciamo le Olimpiadi, quindi se le vinciamo poi abbiamo tempo fino al 2020 per sistemare, insomma, la città. Mi chiedo sempre, a chi serve questo? Perché da noi così è. Serve a lottizzare qualche altro posto? Serve a lottizzare qualche altro posto? Questa è la domanda. Assessore, devo tornare da lei. Assessore di Bari, Elio San Nicandro. Le chiedo, tra l'altro so che lei è anche laureato in ingegneria civile, mi corregga se sbaglio. Ha fatto anche una tesi su progettazioni di impianti sportivi. Insomma, è l'uomo giusto. Premiato dal CONI. Allora, volevo un po' smorzare i toni. Allora, innanzitutto che se ne parli. Io sono d'accordo su tutti i temi di Stella, cioè nel senso che il grande evento ha molte problematicità, però il fatto che se ne parli, voglio dire, è un fatto positivo. E il fatto che si, diciamo, pongano sul... Ma voglio dire, ma è un purché se ne parli, allora stiamo parlando del nulla? Per porre alcune problematiche. Noi, per esempio, uno dei temi che volevamo proporre era proprio quello della sostenibilità, dell'evitare sperperi o grandi, costruzioni inutili. Per esempio, si potrebbero sviluppare delle iniziative, diciamo, temporanee. Per quanto riguarda la ricettività, le do un'idea molto semplice. Noi abbiamo quasi tutti i giorni qui a Bari tre navi da crociere di 3.500 posti ciascuna. Allora, tre navi fanno 10.000 posti. E le ospitiamo sulle navi. Navi da crociere è stato fatto anche ad Atene, guardi. Ci sono evitano di fare sperperi. Allora, questo fatto, anche se posto all'attenzione dell'opinione pubblica, può essere importante. Cioè, il tema è opportuno fare questi giochi? E se farli, dove farli? Preconcetti, siccome stiamo chiudendo, lei farebbe un villaggio olimpico su navi da crociere? Potrebbe essere un'idea. No, villaggio olimpico, parlavamo della ricettività, delle persone. Parlavamo della ricettività dei 50, degli 80.000 posti di ricettività secondo Quindi temporanei, perché le navi poi se ne vanno. Certo, temporanei. E così come ci sono delle strutture, ci sono delle tecnologie oggi che consentono la temporaneità. Va bene. Questo che volevamo dire. Noi volevamo studiare col Politecnico di Bari strutture, tecnologie, tensostrutture di questo tipo, evitare i sei palazzi dello sport di Torino che sono una follia del CIO innanzitutto, ed è una follia per chi ha seguito quei preconcetti. Adesso qua mi devo fermare, Pescante, non ho tempo per farle replicare su questa follia del CIO che dice San Nicandro, ma ci sarà un'altra occasione, vedrà che parleremo di questo tema. Devo ringraziare tutti, l'onorevole Mario Pescante, Elio San Nicandro, assessore allo sport di Bari, Gian Antonio Stella, inviato del Corriere della Sera, grazie per essere stato con noi davvero. Continuate a votare su radio24.it alla sezione bianco-nero. Siamo credibili secondo voi? con quattro candidature alle Olimpiadi e il sole24ore.com anche per votare. Ringrazio Alessandro Marcotulli e Peter Bescapè in regia. Ci troviamo lunedì mattina 7:30 puntuali.